Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori. Giampaolo Musumeci al microfono, Valeria Coffaro in redazione, Fabio Cantadori in regia anche quest'oggi per cercare di raccontarvi meglio il mondo. Le imprese dei corsari somali guadagnano sempre più gli onori della cronaca grazie ad azioni spettacolari, ma non sono i soli. I nuovi corsari riecheggiano nelle loro criminali imprese figure letterarie e cinematografiche. Si muovono armi in pugno su scafi velocissimi, rendono insicuri i mari di mezzo mondo. Chi sono i nuovi pirati? Ne parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano con il comandante Massimiliano Giachino, capitano di fregata della Scirocco, con il professor Di Rienzo, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, e con Raffaele Cazzola Hoffman, giornalista e autore de I Nuovi Pirati. E poi vi porterò in Africa perché ci sono tre appuntamenti elettorali che meritano di essere raccontati oggi: Kenya, Ruanda e Burundi. Le coordinate per interagire con noi in diretta sono SMS 349-238-6666. Siamo su Facebook con una pagina dal titolo Nessun Luogo Lontano, oppure potete scriverci alla mail nessunluogo@radio24.it. Ma siccome Nessun Luogo è lontano, io vi porto a Obbio, sulla costa somala, a 800 km a nord di Mogadiscio. Facevo il pescatore nell'area di Obbio, ma ho dovuto smettere perché tutte le navi e le attrezzature di pesca sono state distrutte dagli spagnoli e dai francesi, che prendono le reti e affondano le piccole barche per rubare le nostre risorse e fare quello che vogliono nei nostri mari. La voce che sentite è quella di Adi Ighie, 29 anni, che è uno dei capi di pirati della zona di Obbio. L'abbiamo raggiunto in esclusiva telefonicamente pochi giorni fa. L'industria dei pirati in quella zona conta, pensate, circa 3.000 uomini. Sono occupati a vario titolo, perché c'è chi si occupa degli avvistamenti, c'è chi si occupa del vettovagliamento, della riparazione delle barche, chi degli assalti e chi poi della richiesta dei riscatti. Adi Ighie guida il comando degli uomini somali all'assalto delle navi commerciali. Ascoltate ancora. Ogni attacco viene condotto da gruppi di 15-20 uomini armati di Kalashnikov. Quando siamo operativi facciamo 25 attacchi ogni mese e controlliamo tutta la costa somala. E in queste ore la fregata italiana Libeccio sta incrociando le acque del Golfo di Aden, missione contrastare proprio loro, i pirati somali. Cercheremo di scoprire meglio come funzionano queste missioni, quali sono le regole di ingaggio, quali sono i rischi. Allora do il mio benvenuto al comandante Giachino, che è di ritorno da una missione sorella. Dal 9 marzo al 5 giugno era operativo nel Golfo di Aden. Buongiorno comandante. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, comandante, lei è stato 3 mesi nelle zone delle acque infestate dai pirati. Più volte, diciamo, vi siete avvistati, siete anche arrivati al contatto. Dopo capiremo meglio come vi siete mossi, ma la prima domanda è questa: qual è il ruolo dell'Italia nella lotta alla pirateria nell'ambito di questa missione che credo sia Atalanta, giusto? Sì, la missione Atalanta è quella che sta svolgendo attualmente la fregata Libeccio. E il mandato principalmente consiste nel proteggere le navi mercantili che transitano nel Golfo di Aden verso il Mar Rosso e quindi il canale di Suez, o che provengono dal Mediterraneo, ma è di controllare altresì i traffici mercantili che si svolgono nelle aree oceaniche limitrofe al Corno d'Africa e quindi nelle aree oceaniche a sud della Somalia, che si estendono fino alle Seychelles, e verso il mare Arabico, quindi verso l'area dell'India. Al tempo stesso la missione Atalanta provvede anche a scortare i mercantili che per il programma alimentare mondiale porta sostegno in termini di alimenti proprio alla Somalia. Quindi comandante, il tratto di mare forse più pericoloso al mondo, che voi presidiate con anche dei successi, perché in alcuni tratti di mare appunto la pirateria è in calo, ma ascoltiamo insieme una scheda che fa il punto sulla pirateria somala. Il 2 agosto un cargo panamense con 23 persone a bordo viene sequestrato dai pirati nel Golfo di Aden. Gli ostaggi della nave, la Suez, sono principalmente di nazionalità pakistana, egiziana e cingalese. La nave trasporta 17.300 tonnellate di cemento ed è stata assalita a colpi di arma da fuoco. Si tratta dell'ultimo dei quasi 200 attacchi pirata registrati nel mondo dall'Osservatorio sulla pirateria dell'International Maritime Bureau di Londra. La metà di questi incidenti è da attribuire ai pirati somali che operano nel Golfo di Aden. Nei primi sei mesi del 2010 sono 544 i marinai presi in ostaggio, 27 le navi dirottate e 105 gli attacchi messi in atto tra Mar Rosso, Golfo di Aden e Oceano Indiano. Il modus operandi è sempre lo stesso. La nave viene avvicinata sotto la minaccia di armi automatiche, quindi abbordata e dirottata verso le coste somale. A questo punto viene richiesto un riscatto per il rilascio del vascello e dell'equipaggio. Sarebbero ancora una ventina, secondo gli ultimi dati, le navi in mano ai pirati somali e circa 400 i membri dell'equipaggio di differenti nazionalità tenuti in ostaggio. Comandante Giachino, come funziona la giornata di un militare, di un marinaio nel Golfo di Aden a caccia di pirati? La giornata è sempre molto intensa. Innanzitutto c'è da prestare molta attenzione a tutto ciò che si muove intorno all'unità. Gli scenari sono vari e sono anche particolarmente differenziati tra di loro, a significare che si passa da una zona molto molto trafficata, quale è il Golfo di Aden, a una zona oceanica dove si possono trascorrere giorni senza incontrare nessuno nelle vastità del mare oceanico. Sicuramente il fattore comune è quello di essere sempre costantemente allerta 24 ore al giorno, nel vero senso della parola, giorno e notte, con tutti gli strumenti di cui siamo dotati, radar piuttosto che visori a infrarossi, in modo tale da poter monitorare di concerto con tutte le altre forze navali presenti nell'area la situazione, quindi in modo tale da poter scoprire e intervenire qualora vi siano pirati che stanno pianificando di condurre azioni delittuose. Ecco, e pianificando azioni, monitorando quello che è il braccio di mare, voi qualche mese fa siete riusciti a individuare il SAD-1, che era questo peschereccio, se non erro, un peschereccio iraniano. Esattamente. Si tratta di una delle imbarcazioni abbastanza grandi, sono costruite di legno e sono di una dimensione che varia dai 20 ai 30-35 metri e sono utilizzate sia per svolgere attività di pesca che per svolgere attività di trasporto, attività assolutamente lecite, sì. Molto comuni in tutta l'area del Corno d'Africa e del Golfo Persico. Nella fattispecie appunto si trattava di un peschereccio indiano che è stato da noi scoperto in prossimità delle coste somale il 14 di marzo scorso e che ci ha subito insospettito per le rotte che stava seguendo e anche per dove si trovava. Normalmente non si avvicinano le coste somale, ben essendo eruditi sui rischi che corrono in quelle zone. Certo. Noi abbiamo iniziato a seguire in maniera palese e poi anche in maniera nascosta, quindi eludendo la nostra, facendo sparire le nostre tracce alla loro vista, sì. E l'abbiamo seguito per due giorni e abbiamo visto che stavano dirigendo verso l'alto mare, quindi i nostri dubbi, i nostri sospetti si sono concretizzati, insomma, sempre una crescente fondatezza, sì. Sino a verificare la presenza dei pirati a bordo. A questo punto li abbiamo forzati a cambiare i loro piani e abbiamo fatto vedere con risolutezza e determinazione, grazie ai nostri strumenti, che non avremmo permesso assolutamente il proseguire delle loro intenzioni, delle loro attività, e a questo punto si sono dovuti arrendere, hanno diretto di nuovo la prora verso le coste somale dopo altri due giorni di navigazione. Nel frattempo eravamo giunti a circa 200 miglia dalle coste somale, quasi 500 chilometri, sì. E dopo due giorni, nottetempo, sono sbarcati lasciando libero il SAD con l'equipaggio. Esatto, con i 19 membri dell'equipaggio che da più di tre mesi erano sotto sequestro. Ecco, comandante, in questo caso, come dire, non avete dovuto sparare colpi, non avete dovuto usare la forza, è stato un inseguimento. Quali sono le regole di ingaggio? Come funziona? Le regole di ingaggio innanzitutto sono comuni a tutte le forze navali che operano nell'area di operazioni, a prescindere dalla loro appartenenza. Sono numerosi i gruppi, le task force che sono presenti in quell'area e consentono, in virtù di quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di intervenire anche con l'uso della forza qualora questo si renda necessario per impedire che sì. Le azioni di attacco vadano a buon fine. Questo significa che se viene intercettato un pirate attack group, come vengono chiamati, sì. Quindi un gruppo d'attacco di pirati, ci si può interporre tra le barche dei pirati e il mercantile sotto attacco al fine di impedire l'abbordaggio del mercantile. Questo anche aprendo il fuoco? Anche l'uso della forza, ecco. Assolutamente sì. Allora, 349-238-6666, se avete domande a me o più ragionevolmente al comandante Giachino, ospite quest'oggi a Nessun Luogo è Lontano. Io all'inizio della trasmissione ho parlato di industria dei pirati, ma non a caso. Sentite il nostro pirata a dighe quanto dice di fatturare. Dipende, a volte 3 milioni di dollari, a volte 3 milioni e mezzo, a volte 4. Ma quello che ci interessa è la sicurezza delle nostre acque. I soldi non sono l'obiettivo principale degli attacchi. Questi soldi li impieghiamo nell'acquisto dell'equipaggiamento e delle armi che ci servono per proteggere i nostri mari, ma una parte la distribuiamo alla popolazione. Allora, comandante Giachino, in realtà si inizia già a palesare all'orizzonte quello che è un po' un alibi che poi cercheremo di svelare, l'alibi dietro la quale si rifugiano, secondo la comunità internazionale, i pirati somali, cioè loro sostengono di proteggersi dall'invasione straniera dei cargo, dai veleni, da gente che viene a pescare nel loro mare, quando poi in realtà, come dire, è un'industria molto molto lucrosa. Che difficoltà incontrate nel caso dell'ingaggio? Questi pirati sono armati efficacemente? Sì, sono armati efficacemente nell'ambito delle attività che devono condurre, visto che se la prendono con equipaggi di navi mercantile che mediamente sono disarmati e non sono impossibilitati a reagire. Loro sono, i pirati intendo, sono armati con mitragliatori automatici, normalmente i famosi, tristemente famosi Kalashnikov, sì, e con RPG, quindi con lanciarazzi. Esattamente. E con queste piccole imbarcazioni, con un'imbarcazione singola con 4 o 6 persone a bordo, piuttosto che con 2 o 3 imbarcazioni con 2 o 3 persone ognuna, portano gli attacchi ai mercantili. Comandante, ascoltiamo insieme il punto focale, quello diciamo del grande alibi dietro al quale anche Adighe tenta di rifugiarsi. Ascoltiamo. La ragione dei nostri attacchi è che le navi straniere entrano nelle acque somale. Noi non attacchiamo le navi che si limitano ad attraversare le acque internazionali. Se però vediamo una nave straniera a largo delle coste, interveniamo, perché il nostro obiettivo è difendere il nostro oceano. Prima non facevamo attacchi alle navi mercantili, ma poi ci hanno costretto a farlo, perché abbiamo visto che venivano a buttare veleni nel nostro mare. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, Nessun Luogo è Lontano, qui su Radio 24, siamo nel Golfo di Aden, siamo al largo delle coste somale, stiamo cercando di capire chi sono i pirati del terzo millennio. Allora, comandante Giachino, voi avete avuto contatti con le autorità somale del Puntland, regione semi-autonoma a nord della Somalia, che è uno dei punti di partenza dei pirati. Avete avuto questo contatto, come dire, che è stato virtuoso dal punto di vista dell'informazione, perché avete scoperto che, come dire, i pirati, per reclutare gente, che cosa dicono, che cosa raccontano? Raccontano proprio quello che hanno propagandato anche in quella registrazione che ha mandato in onda, ovvero che l'attività di pirateria è un'attività legale dal loro punto di vista ed è doverosa proprio per difendere le attività ittiche che svolgono i pescatori somali. Noi abbiamo avuto questo riporto molto determinato, inizialmente l'incontro con i dignitari delle due località, e si tratta di Bargal e di Las Quarei, queste due comunità che abbiamo avuto modo di incontrare e di far venire a bordo, ci dicevano che con determinazione che le loro attività di pesca sono minate dalla presenza dei pescatori stranieri, occidentali mediamente, noi abbiamo avuto e questo però, comandante, in parte è vero, far capire che non è assolutamente così. Nemmeno in parte, comandante? Non ho capito. Nemmeno in parte, dicevo, è vera no, questa cosa. No, nemmeno in parte. Noi nei tre mesi, più di tre mesi di permanenza nell'area del Corno d'Africa, sia nel Golfo di Aden che nell'area oceanica, e lo stesso è il riporto delle altre navi. Non abbiamo mai osservato sconfinamenti o mercantili che attuassero delle attività illecite di qualsiasi natura. Peraltro i passaggi dei banchi di pesce sono ben noti, avvengono molto molto lontano dalle coste somale. E peraltro, una volta che si è, per così dire, rotto il ghiaccio, anche i dignitari di quelle comunità locali ci dicevano che la loro attività di pesca preminente è quella costiera, che effettivamente non viene toccata da nessuno. Sì. In alto mare, come si sa, è mare di tutti, è libero e chiunque può accedervi e pescare liberamente. Quindi questa è, senza ombra di dubbio, la strategia messa in atto dai pirati per poter attirare verso un'attività presentata come molto molto remunerativa la forza giovane del popolo di quelle aree. Addirittura in regioni e con numeri, abbiamo sentito proprio dalla voce diretta di questo pirata, di 3.000 persone. Comandante, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro, a quando una ripartenza? Lei adesso siete ormeggiati? Noi ora siamo ormeggiati nella base di La Spezia, partirà tra non molto un'altra nave che andrà a sommarsi al Libeccio, che è già in zona d'operazione. Sì. Si tratta di nave bersagliera, un'altra fregata della squadra navale italiana, che andrà in operazione Ocean Shield, una delle altre degli altri gruppi navali, l'Ocean Shield sotto egida NATO, per svolgere attività antipirateria. Quindi noi terremo un po' il fiato e poi saremo pronti tra non molto a ripartire per continuare con l'attività. Allora, grazie, un buon lavoro al capitano di fregata Massimiliano Giacchino, comandante della fregata Scirocco. Grazie mille, buongiorno anche a lei. La pirateria del terzo millennio a nessun luogo è lontano. Allora, buongiorno Raffaele Cazzola Hoffman, autore de I Nuovi Pirati, collega, giornalista, docente di storia dell'Asia all'Università di Enna. Buongiorno. Buongiorno Giampaolo, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, ho per le mani il tuo libro, molto interessante perché è una completa ricognizione su quello che è il fenomeno pirateria nel mondo. Oltre alla Somalia, qual è il grande nodo cruciale, qual è l'altra grande ferita, la grande piaga? Ma è indubbiamente la pirateria. Oggigiorno, come peraltro è avvenuto anche nel passato, è presente non soltanto a largo della Somalia, ma anche in altre parti del mondo, in particolar modo il discorso vale per l'Oceano Indiano, per il Mar Cinese Meridionale. Il discorso vale anche, pur in misura più attenuata, per l'America Latina e per i Caraibi, senza dimenticare poi peraltro, sempre rimanendo al discorso Africa, di cui già si è parlato in relazione alla Somalia, ecco, bisogna dire che anche nella parte occidentale del continente nero, soprattutto nel Golfo di Guinea, che è ricco di petrolio e quindi di traffici commerciali, e la pirateria è un fenomeno molto grave. Certo. Raffaele, tu in un capitolo analizzi, mi sembra un punto molto importante, quella che è la dipendenza della pirateria dall'instabilità politica, in parte l'hai già accennato, però possiamo ipotizzare in realtà un vizioso percorso in cui la pirateria nasce dove c'è instabilità politica, dove non ci sono stati, dove insomma c'è ampio spazio, no? per libertà, e allo stesso tempo continua ad alimentare un'instabilità politica, perché rendendo insicuri quei luoghi fa alzare il prezzo delle merci, fa alzare il prezzo delle assicurazioni. Come funziona questo circolo? Ma sì, ovviamente la pirateria, diciamo, ha enormi effetti sul piano politico, ma anche su quello commerciale, in generale su tutto il mondo dell'economia, tenuto conto che diciamo ancora oggi la grandissima parte dei commerci mondiali avviene su mare. Un esempio concreto è quello, per esempio, appunto dello stretto. Ecco, io ti farei l'esempio dello stretto, per esempio, di Malacca in Asia, perché ecco, è un esempio riguardante sia aspetti politici che aspetti economici. Sì. L'aspetto politico, per esempio, anche questo è interessante notare, appunto, per confermare questo legame fra instabilità politica, diciamo caos interno di un paese e pirateria, e che per esempio negli ultimi anni, al contrario di quanto avviene in precedenza, la pirateria per esempio sullo stretto di Malacca sta denotando un certo calo, e questo appunto questo calo non casualmente avviene nel momento in cui proprio negli ultimi anni paesi come per esempio l'Indonesia o la Malesia si sono rafforzati sul piano interno e anche allo stesso tempo hanno avviato una forte azione di repressione e di prevenzione. Chiarissimo. Lo stretto di Malacca per esempio è un esempio anche interessante come dire, sul piano economico, perché diciamo, lo stretto di Malacca è sostanzialmente il principale snodo commerciale del mondo. Sì. Ogni giorno vi transitano circa 15 milioni di barili di petrolio, circa il 25% dei commerci mondiali transita per lo stretto di Malacca, e appunto non a caso comunque lo stretto di Malacca, nonostante questo trend in calo, rimane comunque uno dei punti focali della pirateria oggi, come peraltro lo era stato già nei secoli passati. In passato. Io, per esempio, ricordo che per esempio quel tema pirateria, restando appunto in quest'area geografica, era già molto presente, pensiamo, già nell'Ottocento, quando appunto per esempio gli inglesi completarono la loro penetrazione nella penisola malese. Sì. Una delle loro priorità fu proprio quello di creare un forte presidio sulle coste, proprio per bloccare la pirateria, che era una delle più grandi minacce per i loro commerci. La pirateria quindi affonda le sue radici nel passato, ma siccome ci hai portato dall'altra parte del mondo, facciamo il punto sul fenomeno dal punto di vista mondiale, globale. Nei primi sei mesi del 2010 ci sono stati 196 incidenti in tutto il mondo legati ad atti di pirateria. 31 navi sono state dirottate, 48 hanno subito assalti con armi da fuoco, 70 sono state abbordate e 47 navi hanno subito tentati attacchi, ma sono riuscite ad evitarli. Tra gennaio e giugno 2010, un membro di un equipaggio è morto, 16 sono stati feriti e 597 sono presi in ostaggio. Questi sono alcuni dei dati diffusi dall'Osservatorio sulla pirateria dell'International Maritime Bureau di Londra. Nello stesso periodo dell'anno scorso, gli atti di pirateria erano stati 240, quest'anno quindi si è registrato un calo. Il declino è dovuto al calo degli assalti nel Golfo di Aden, passati da 86 nel 2009 a 33 nel 2010. Tuttavia, gli attacchi dei pirati somali sono aumentati nell'Oceano Indiano e nel mare di fronte alla Somalia, passando da 44 a 51. Nelle acque nigeriane, gli atti pirateschi appaiono in calo, mentre nei mari del sud della Cina sono più che duplicati. C'è anche una crescita degli incidenti nei mari indonesiani, con 16 attacchi registrati contro i 3 dell'anno scorso, così come in Bangladesh, dove si registrano 8 assalti contro i 3 dell'anno scorso. Questo è lo stato dell'arte, se così possiamo dire, della pirateria nel mondo. Do il mio buongiorno al professor Di Rienzo, docente dell'Università La Sapienza di Roma. Allora, professor Di Rienzo, l'ho coinvolta perché lei ha una tesi molto interessante che ci permette di analizzare la pirateria da un punto di vista nuovo, da un punto di vista diverso, cioè un paragone che a prima vista può sembrare così inusitato, forzato, con il terrorismo. Ce lo spiega? Sì, guardi, io partirei da un dato di fatto. Quando Bush decretò la guerra al terrore, si rifece come precedente giuridico alla guerra contro la pirateria. Al contrasto contro la pirateria, che è sempre stato fatto da tutti gli stati dall'epoca dei Romani in poi. Perché? Perché mancava una base giuridica per decretare questo intervento contro il terrorismo, quindi c'era bisogno di rifarsi a questo precedente. In che cosa il terrorista e il pirata hanno dei punti di contatto? Beh, il pirata naviga sul mare che non è mai sottoposto a sovranità statale. Il terrorista naviga su un altro mare, quello della globalizzazione, anche questo che sfugge al controllo della sovranità statale. Questo è il punto di contatto tra queste due figure così apparentemente diverse. Certo, al terrorista manca apparentemente un connotato che era proprio del pirata, cioè la volontà di rubare, quella che sì, la giurisprudenza latina definiva l'animus furandi. Però sappiamo bene che fenomeni delinquenziali e fenomeni terroristici vanno strettamente legati. Basta pensare alla situazione nell'Afghanistan, dove i talebani, come si chiama, che supportano il terrorismo di Al-Qaeda fanno parte di, consorterie brigantesche, cioè i talebani vivono di commercio dell'oppio, di rapimenti e di vendita di minori e di donne, e quindi troviamo un ulteriore punto di convergenza. Professore, la devo interrompere perché dobbiamo dare la linea alla viabilità. Tra pochissimo con Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. E se è vero che i pirati riescono ad agire perché in qualche modo esiste un limbo giuridico nel quale navigano e fluttuano, è anche vero che da pochi giorni, da alcune settimane, in Kenya, a Mombasa, si è aperto quello che è il primo tribunale che dovrà giudicare i pirati. È un'iniziativa del governo keniano in collaborazione con lo UNODC, che è l'agenzia dell'ONU che si occupa di droga e criminalità, appunto, a livello mondiale. Però, professore, con lei volevo tornare su un episodio datato qualche mese fa, quando un cargo russo, assaltato dai pirati, riuscì in qualche modo a difendersi e abbandonò i pirati disarmati sul loro vascello, sulla loro piroga, sulla loro nave d'assalto, senza armi, senza viveri e senza acqua. Com'è possibile? Beh, insomma, lasciamo perdere il fatto che i russi e i diritti umani non hanno mai goduto di una grande fortuna. Mettiamo da parte questo. Però in qualche modo qua ci si rifà a una vecchia normativa giuridica di contrasto alla pirateria. Il pirata, se catturato, poteva venire immediatamente condannato a morte. Questa è tutta la caratteristica giuridica 6, 7, 800esca. A prescindere dalla sua nazionalità, cioè non doveva essere riconsegnato allo Stato a cui apparteneva, ma poteva essere condannato a morte, impiccato, come si chiama, all'albero maestra delle navi, come ci raccontano i romanzi di avventura. Guardi, qua c'è un altro punto interessante con il terrorismo, le famose gabbie di Guantanamo, che destarono uno scandalo internazionale, cioè gli americani catturavano dei terroristi e li richiudevano senza seguire nessuna procedura giuridica in questa prigione, questa base militare a Cuba, ma non facevano altro che applicare la vecchia normativa. C'erano terroristi arabi, ma c'erano anche terroristi inglesi, per esempio, cioè alcuni di origine araba, alcuni no, perché il terrorismo è una fede che si espande. Il governo statunitense non ha mai pensato di riconsegnare, come sarebbe stato ovvio, questi prigionieri al loro stato di appartenenza. Quindi, insomma, in sostanza lei dice questo limbo permette anche azioni legali, perché sono nell'ambito, nell'alveo della legge, però magari se vogliamo discutibili... Il diritto internazionale da questo punto di vista non è cambiato, è cambiato per quanto riguarda un'altra figura di combattente anomalo, quella del partigiano, cioè la convenzione dell'AIA e anche quella di Ginevra, diceva che qualcuno che combatte contro un esercito regolare senza uniforme può essere messa a morte senza processo. Grazie, allora professor Di Rienzo, devo fermarla perché il tempo ai noi è tiranno. Un grazie anche a Raffaele Cazzola Hoffman per essere stato con noi, lo ricordo, autore dei Nuovi Pirati, la pirateria del terzo millennio. E questo è quello di cui abbiamo parlato fino adesso, qui a Nessun Luogo è Lontano. E allora, ve l'avevo detto, saremmo tornati in Africa perché ieri si è votato, oggi si è vinto che almeno i due terzi della popolazione keniana si è recata alle urne, si sta scrutinando circa il 50% delle schede, quindi il referendum sulla Costituzione va verso una larga vittoria del sì. Questa Costituzione cercherà di decentralizzare in qualche modo il potere del Presidente, c'è prevista anche una riforma agraria e poteri specifici alle corti islamiche, quindi a dei tribunali islamici, ad esempio in materia di eredità. Vi avevo detto però che questo è un periodo molto caldo per la zona dei Grandi Laghi, Ruanda, Kenya, Burundi. Si avvicina un appuntamento elettorale il 9 agosto, che è quello ruandese, forse lo sapete, il paese delle mille colline, che ha vissuto nel 94 il dramma del genocidio. Abbiamo raggiunto Matteo Fagotto, che è a Kigali, giornalista internazionale che segue le elezioni ruandesi. Ma diciamo che a Kigali si respira un'aria principalmente di rassegnazione per i risultati delle prossime elezioni presidenziali del 9 agosto. Rassegnazione perché? Perché il presidente Paul Kagame vincerà sicuramente, molto probabilmente con un risultato simile a quello delle elezioni del 2003, quando vinse con il 95% dei voti. I tre candidati che lo sfideranno appartengono tutti a partiti politici che sono alleati con l'RPF, che è il partito di governo di Kagame, mentre parecchi esponenti dell'opposizione sono stati banditi dalle elezioni poche settimane prima del voto, per diverse ragioni, alcuni per diciamo errori burocratici che però ovviamente tradiscono una motivazione politica dietro, e altri perché accusati di denialism, di difendere l'ideologia del genocidio e di sostanzialmente fare una politica ancora divisa tra Hutu e Tutsi. Questa è diciamo la questione principale delle elezioni politiche in Ruanda. L'RPF sostanzialmente sostiene sì di non essere pronto in questo momento a concedere a Ruanda una democrazia piena. Perché? Perché se questa democrazia piena fosse concessa, molti esponenti politici e parte della società voterebbero ancora secondo le loro linee etniche, qualcosa che l'RPF sostiene il Ruanda attuale non è pronto ad accettare. Perché? Perché si potrebbe tornare all'incubo del 1994, all'incubo genocidio, all'incubo lotta tra le varie comunità per prendere il potere. C'è anche da dire che l'RPF è una formazione sostanzialmente tutsi. Tutsi qui in Ruanda sono solamente il 15% della popolazione e si sentono francamente insicuri sulla possibilità di mantenere a lungo termine il potere qui in Ruanda, e hanno quindi deciso di scommettere sullo sviluppo economico di questo paese, dando quindi servizi di base, educazione e sanità gratuite a tutta la popolazione, per garantire sia un futuro a Ruanda sia una base politica che possa essere un pochino più solida e un pochino più tranquilla nei loro confronti. Quindi diciamo che il prezzo per la stabilità e la sicurezza al momento è, come dire, una democrazia un po' offuscata, un po' opacizzata, per usare un eufemismo. Esattamente, sì. Ho intervistato recentemente il ministro dell'economia, che non ha avuto problemi a farmi un paragone che è molto calzante. Lui mi ha detto: in Cina in futuro arriverà la democrazia con il miglioramento delle condizioni economiche della popolazione. È un processo, secondo lui, naturale che verrà col tempo. In questo momento lui sostiene che il Ruanda non è pronto per un passo del genere. E questo è il faticoso percorso del paese delle mille colline verso la democrazia, delicati equilibri che devono essere rispettati per cercare di uscire, di voltare pagina e di dimenticare una pagina dolorosissima che fece 800.000 morti in 3 mesi, quando gli Hutu uccisero appunto i rivali Tutsi e uccisero anche tanti Hutu moderati. Chi conosce e studia particolarmente questi temi è anche Donatella Rostagno, buongiorno. Buongiorno. Che lavora per l'EURAC, che è il network europeo per l'Africa centrale di alcune ONG, e viaggia spesso e volentieri nella zona dei Grandi Laghi, ma stavolta non viene da Ruanda, anzi viene da Ruanda perché c'è passata, ma è stata in Burundi a osservare le recenti elezioni legislative. Ci fai un quadro sintetico della situazione, di cosa è successo in Burundi? In Burundi quest'anno c'è stato un ciclo elettorale che prevedeva vari scrutini. Abbiamo cominciato con le elezioni comunali a maggio e poi ci sono state le elezioni del presidente a giugno e le legislative e le senatoriali adesso a luglio, quindi sono stati vari appuntamenti. Le elezioni sono iniziate a maggio con la partecipazione di circa 24-25 partiti politici. La maggior parte di questi partiti politici si sono ritirati dal processo elettorale dopo le elezioni comunali perché, secondo loro, il partito al potere, che ha vinto le elezioni comunali con grande vantaggio rispetto agli altri partiti, aveva commesso frodi elettorali enormi. Sì. Da quel momento in poi il processo elettorale è stato un po' chiaramente bozzato, perché c'è stata la partecipazione per le presidenziali di un solo candidato, il presidente attuale uscente e che poi ha anche chiaramente vinto le elezioni. Sì. Che costituisce, come dire, un'analogia con Ruanda in qualche modo, perché Kagame è un vincitore annunciato. Esatto. Beh, in quel caso era chiaro, perché appunto c'era veramente anche solo un candidato, sì, che è Pierre Nkurunziza, che è stato presidente anche nel quinquennio precedente. E poi però purtroppo si sperava, noi speravamo, abbiamo anche lavorato tanto con i partiti dell'opposizione perché rientrassero nel processo democratico, nel processo elettorale, non l'hanno fatto, e quindi anche per le elezioni legislative e senatoriali purtroppo c'è stata la partecipazione di due partiti, oltre al partito al potere, e quindi tre partiti in tutto. Grazie, grazie allora per il sintetico quadro. Donatella Rostagno, quando è che riparti per la zona dei Grandi Laghi? Beh, sicuramente prima della fine dell'anno, non so ancora quando esattamente. Va bene, grazie mille, una buona giornata. Grazie, grazie anche a te. WhatsApp. E allora il tempo è tiranno, ma abbiamo tempo notizie per dall'altro lato del mondo. Dare un'occhiata alle notizie dall'altro lato del mondo. Velocemente, in Messico, dove è stato adottato un protocollo, è stato suggerito ai giornalisti che si occupano di narcotraffico, giubbotto antiproiettile, casco, non parcheggiare la macchina vicina ai luoghi dove si va poi a documentare, a fare la cronaca, in modo da scappare in fretta. E sempre in Messico, il presidente Felipe Calderón ha detto che prenderà in esame la possibilità di un dibattito parlamentare sulla legalizzazione delle droghe, che, come sapete, sta scatenando una vera e propria escalation militare. In Pakistan è salito 80 il bilancio dei morti nelle violenze di Karachi. Ieri è stata addirittura attaccata una moschea a colpi di granata. Ad Haiti, il rapper Wyclef Jean, leader dei ex membro dei Fugees, la pop band, si candiderà alle prossime elezioni presidenziali. Lo ha riferito ieri la CNN in pompa magna, dando grande spazio a questa notizia. La 37enne star dell'hip hop dovrebbe annunciare la sua candidatura prossimamente, ufficialmente. Ha già iniziato il suo tour, si è fatto vedere al Jazeera, lo ha fatto vedere proprio questa mattina, si è già fatto vedere nella sua Haiti, dove un bagno di folla lo ha accolto. E poi vi riporto in California, dove il giudice distrettuale Vaughn Walker ha stabilito che è incostituzionale proibire i matrimoni gay nello Stato. Nei mesi scorsi i californiani votarono a favore di un referendum che mise al bando le nozze tra omosessuali. Ora però questo giudice ha ribaltato l'ultimo divieto, definendolo contrario ai principi della Costituzione americana. Il tempo è scaduto, Nessun Luogo Lontano finisce qui. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, non prima di aver ricordato che in redazione con me c'era Valeria Coffaro, in regia alla parte tecnica c'era Fabio Cantadori. Noi ci risentiamo domani alle 13:15, ricordando che Nessun Luogo è Lontano.